oggi mi sento yeah. Che fanno bla bla, odio contagioso, oh mamma, ce l'ho fatta dalle case trap trap. Se sono ricco non è coincidenza, sto meglio su un beat che per strada. Forse Dio mi ha dato una chance, ah, o mi ha tolto da quella sbagliata. Freddo, il mio cuore al mattino, sembro un cazzo di frigorifero. La bitch vuole starmi vicino, bipolare sembra di fare un triso. I miei metto la maschera giù quando il sole va giù. Mentre è l'odio che vende, ma il bene ritorna sempre. Oggi mi sento yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Non perdo tempo con te, che stai sotto copertura. In realtà pensi solo al cash, posso dirti soltanto bleh. Tu fallisci insultando me, non capisci sta montatura. Forse perché parte da te, la mia testa che mi fa un pam pam pam pam pam pam. Oh my god, va di là dopo di qua. A volte bla bla, a volte la la la la la la la la. Sono in strada con la barama, preferisco fare